È bellissimo essere qui perché ci apparteniamo l'uno all'altro, non solo io a mia moglie, ma in una maniera misteriosa tutti quanti noi ci apparteniamo l'uno all'altro se siamo in Cristo Gesù e siamo venuti in Cristo Gesù. E quindi ti faccio una domanda questa mattina, perché sei qui questa mattina? Girati a chi ti sta a fianco e digli perché sei qui, perché sei venuto stamattina? Perché? Perché sei qui questa mattina? È da un po' di tempo, a dire il vero quasi un paio di anni, che ho notato che qualcosa non andava in me. E quindi ho iniziato a farmi, non andava in me, soprattutto quando dovevo venire in chiesa la domenica mattina o la domenica sera, quando facevamo gli incontri di domenica sera. Forse si era inscaturita un'abitudine, instaurata una routine, e ho colto che qualcosa non andava. E ho detto, no Gianluca, da adesso in poi, ogni mattina, ogni domenica mattina, ogni qualvolta ti vai a incontrare con il popolo di Dio, devi chiederti perché ci vai. Perché sei qui stamattina? Perché sei venuto qui stamattina? Sapete, quando noi ci incontriamo, una battaglia si scatena. Quando noi ci riuniamo nel nome di Cristo Gesù, non per fare la grigliata, andare al mare, quello è un po' diverso, però quando ci incontriamo nel nome di Cristo Gesù si instaura una battaglia che è all'ultimo sangue e noi saremmo stolti, miopi direbbe la parola, se non cogliamo questa battaglia. Cadremmo sconfitti in questa battaglia se non siamo consapevoli che ogni qualvolta decidiamo di andare in chiesa, di riunirci nel nome di Cristo Gesù, questa battaglia c'è. E vi ricordate chi si presenta? Un mesetto fa l'abbiamo detto, no? Moggio, senza che nessuno lo invita. La domenica mattina, magari quando suona la sveglia perché ti sei proposto di andare in chiesa, e dici, pure stamattina devi andare. No? E sei andato la settimana scorsa. Dai, una settimana, che sarà mai? Ma vabbè, stamattina vai al mare. No, è stagione di mare. Vai al mare. Oppure ti vengono pensieri, ma anche sofferenze. E non so se voi le vivete o sono l'unico. Spero che non sia l'unico. Però quando entriamo da quelle porte, diciamo, ma mi vedranno alcuni, dovrò vedere alcuni, dovrò compiere lo sforzo di essere fratello, sorella, amare. Questa è la battaglia che si... E se non ti rendi conto che c'è questa battaglia in te, fai bene a renderti conto. Altrimenti cadi vittima inconsapevole del nemico, perché è lui che vuole distruggere, è lui che vuole rubare la serenità da quando entri da quelle porte, se sono le porte della chiesa, se sono le porte di una casa per un gruppo familiare, se sono le porte di un bar perché ti fai a fare un caffè con una sorella, con fratello, una sorella per parlare delle cose di Cristo Gesù e ti stai incontrando nel nome di Cristo Gesù, anche in un bar vale. Una battaglia si scatena. Non essere miope a tutto questo, perché se sei miope non sai come combatterla. Se sei stolto e la ignori, non sai come affrontarla. Non sai come affrontarla, non ti rendi neanche conto che c'è il nemico con le sue schiere degli angeli che stanno impedendo e facendo di tutto affinché tu non lo viva, e se lo vivi, non lo vivi serenamente. E io credo che c'è un altro pericolo di questo nostro tempo, di questa nostra modernità. E questo si chiama YouTube, streaming, connessioni e quant'altro. Allora, guardate che connettersi, seguire l'incontro è stata una salvezza, è stata una cosa buona, è stato un mezzo del Signore per aiutarci nelle difficoltà, giusto? Che siano quarantena o anche stamattina una persona è malata, impossibilitata, quant'altro, è uno strumento meraviglioso e il Signore ce lo ha dato, però come ogni strumento, Satana lo può usare per i suoi propositi. Sapete, secondo me la connessione internet e quant'altro è come una mano bionica Per chi non ha una mano, l'avete visto, no? Queste mani robotizzate sono meravigliose oggigiorno, no? Per chi non ha una mano è una cosa meravigliosa, gli cambia la vita, gli permette di fare cose che altrimenti non riuscirebbe a fare, magari gli salva anche la vita. Per noi, in emergenza, in situazioni di crisi, internet, connettersi, la telecamera e quant'altro, lo schermo a casa, il poter vivere live, questo incontro è come la mano bionica. Ma nessuno discute il fatto che la mano vera è meglio. O sbaglio? Sono l'unico a pensare che la mano vera è meglio. E quando noi ci incontriamo, non solo siamo mano, siamo il corpo, siamo tutto il corpo, siamo il corpo di Cristo che viene alla sua presenza e al suo cospetto. Quindi usiamo questo strumento e guardiamo questo strumento, anche chi ci segue da casa, salutiamo, non li condanniamo, ma dobbiamo essere molto attenti a tutto questo. Perché? Perché può essere uno strumento nelle mani del nemico che ci allontana, che ci separa, che ci deruba, ascoltate bene a questa parola, che ci deruba di benedizioni. Amen? Siete d'accordo? Vi siete un po' assopiti? No, state ascoltando attentamente, giusto? Ora, se tutto quello che io ho detto fino ad ora è frutto della mia sapienza e delle mie considerazioni, qualcuno può dire sono d'accordo, non sono d'accordo, va bene, non va bene. Lasciano il tempo che trova. Per questo noi dobbiamo andare alla parola di Dio e provare che quello che crediamo e quello che diciamo sia sua verità o meno. E questo voglio fare insieme, come sempre, questa mattina, con il tempo che ci rimane. Andiamo a un salmo piccolo piccolo, conosciutissimo, che però ci parla proprio di questo. Io spero che, a prescindere dal fatto che è molto conosciuto dalla maggior parte di noi, possa parlare in maniera fresca, possa correggere, istruire e educare, come dice la parola, della parola stessa, che possa guidarci alla perfezione. Questo piccolo salmo. Lo leggiamo insieme. Il Salmo 133. Dovrebbe essere pure sullo schermo, eccolo. Sì, leggiamolo insieme così. Ecco, lo conosce, l'avete riconosciuto, vero? Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. E come l'olio, e come l'olio profumato che è sparso sul capo, scende sulla barba di Aronne, che scende fino all'orlo dei suoi vestiti. E come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. C'è la seconda parte. Là, infatti, laddove c'è la comunione fraterna, il Signore ha ordinato che ci sia benedizione, la vita in eterno. Questo salmo, piccolo piccolo, è un'arma letale contro il nemico nella nostra battaglia a stare insieme, ad essere famiglia, a continuare a perseverare insieme, a prescindere dalle circostanze. È un'arma letale. Guardate che bellissima arma letale è questa. Il salmo inizia con ecco. E la traduzione letterale sarebbe guardate, ammirate, osservate. Questa è la prima parola. Una delle ultime parole del Salmo invece è benedizione, come abbiamo letto, no? C'è benedizione quando stiamo insieme. Una delle ultime parole è benedizione. In altre parole il Salmo sta dicendo guardate, osservate, state attenti, ecco, prestate attenzione. Dov'è la benedizione? La benedizione è in un posto ben specifico. State attenti. La benedizione è lì dove i fratelli dimorano insieme. Fratelli e sorelle anche, le diamo il benvenuto, vero? Amen. Fratelli e sorelle, il popolo di Dio. Osservate, guardate, la benedizione sta quando il popolo di Dio sta insieme. A dire il vero, questo vivere insieme della traduzione che vi ho letto, altre traduzioni che forse avete memorizzato, dicono ecco quanto è buono e piacevole che i fratelli dimorano insieme. Queste due parole, dimorare insieme, vivere insieme, stare insieme, hanno una profondità che si perde un pochino nella traduzione. È un non solo venire, fare la presenza, timbrare il cartellino. Quindi vedete quanto è forte la battaglia. Non solo basta che vieni a fare la presenza, ma è un puoi sedersi insieme. Tutto questo fa parte del significato di questi vocaboli che è impossibile tradurre con due parole. Fa parte di questo vocabolo il sedersi insieme. Combattere insieme, l'uno a fianco all'altro. E continuare a perseverare per un cammino insieme. Tutto questo è racchiuso in quel vivere insieme. Quando noi scegliamo in Cristo Gesù di vivere insieme, di perseverare insieme, di stare seduti insieme, di continuare a combattere insieme, a prescindere dalle circostanze, il Signore dice lì è la benedizione. Lì sta la benedizione. E io credo. Io credo alla parola di Dio. E io credo che quando mi dice che lì sta la benedizione, io lo abbraccio. Io credo che la parola di Dio è luce, io credo che la parola di Dio è vita, io credo che la parola di Dio è saggezza. E quando la parola di Dio mi dice, anche se l'evidenza magari mi dice altro, io credo che lì sta la benedizione, quando noi stiamo insieme. Non c'è cosa più meravigliosa. Per un papà, ve lo dico anche da padre, vedere i figli che vanno d'accordo. Non è vero, genitori, è vero. Quando vedi, per esempio nel mio caso, il grande difendere le femminucce, il mio cuore si riempie di orgoglio. E dice, sì, quello è mio figlio e ama le sue sorelle e le difende. O le sorelle quando si abbracciano, quando si considerano teneramente l'un l'altro, quando rinunciano a qualcosa di loro per darlo all'altra. Non c'è cosa più meravigliosa, e a questo noi siamo chiamati, questa è la nostra chiamata, e per questo noi combattiamo. Non basta connettersi via streaming settimana dopo settimana dopo settimana. Perché? Perché, fratelli e sorelle, quello che avviene su questo palco non è tutto. Tutto quello che noi viviamo non è tutto quello che avviene su questo palco. Certo, io ringrazio il Signore, ringrazio i ragazzi, l'ho fatto anche stamattina, perché si sacrificano e si danno per il Signore e ci guidano in loro. Non è una cosa meravigliosa? Grazie ragazzi, anche quelli in regia. Grazie per chi pulisce la sala, per chi è meraviglioso che noi possiamo far questo. È fondamentale stare all'insegnamento, stare dinanzi all'insegnamento della sua parola domenica dopo domenica. Ma vi ripeto, quello che succede qui sul palco non è tutto, c'è molto di più. Per questo noi siamo chiamati, la nostra chiamata è a vivere insieme, è a combattere insieme, è a combattere il nemico che vuole separare, che vuole distruggere, che vuole rubare armonia, che vuole rubare amore fra di noi. Contro questo noi combattiamo, non contro il fratello o la sorella, non contro quello che ti saluta o non ti saluta, non quello, contro quello che ti ha ferito o non ti ha ferito. Noi combattiamo contro il nemico. Noi combattiamo contro il nemico. E guardate, questo che noi viviamo, sono tentato, guardate, mentre sto parlando per i prossimi secondi, guardate l'un l'altro, non guardate me. Giratevi l'uno verso l'altro. Questo che noi viviamo è un miracolo. Perché noi non possiamo andare d'accordo di nostro. Noi non possiamo amarci di nostro. Noi abbiamo bisogno di Gesù per farlo. E Lui lo fa. Lui dice, quando scegliete di vivere insieme, quando decidete di combattere l'uno per l'altro, quando decidete di perseverare per il cammino insieme, io porto lì la mia benedizione. Io lo faccio per voi. Per questo noi ci arrendiamo a Lui. Non è facile, vero? Vabbè, noi siamo, non dico perfetti, ma quasi, vero? Sei stato deluso. Sei stato ferito. Sei amareggiato. Benvenuto a casa. Benvenuto a casa. È successo e vi do una notizia, succederà di nuovo. Ti do un'altra notizia, non sei il primo e non sarai l'ultimo. Non siamo i primi come Chiesa che viviamo questo e non saremo gli ultimi che vivremo come questo come Chiesa. Mi credete? No, non vi vedo che proprio convinti. Sentite che cosa dice il Signore a una Chiesa che ha vissuto questa battaglia tanto tempo fa, e come il Signore li ha incoraggiati attraverso l'Apostolo Paolo. Sentite che cosa dice il Signore alla Chiesa di Efeso attraverso l'Apostolo Paolo. Vi esorto, Efesini 4, dall'1 al 6, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. La vocazione è essere passati dalla morte alla vita eterna in Cristo Gesù. E quindi esorta a comportarsi in modo degno del fatto che si è passati dalla morte alla vita eterna, proprio come tutti quanti noi. E come dobbiamo comportarci in modo degno? Sentite un po', con umiltà, mansuetudine, pazienza, pazienza. Ripetete dopo di me, pazienza. Sopportandovi, sopportandoli gli uni gli altri con amore. Non sopportandovi, no? Vabbè, faccio finta che non esiste. Quando vengo in chiesa guardo l'altra parte perché proprio, no, non c- non è questa la sopportazione che siamo chiamati a vivere, è sopportarci con amore, è sopportare la ferita, è sopportare il torto subito, andare dal fratello e dire io lo sopporto e scelgo di amarti di nuovo, io ti perdono, io ti accolgo di nuovo, sapete perché? Perché io ho bisogno di perdono, perché io ho bisogno di accoglienza, perché Cristo Gesù mi ha perdonato, perché Cristo Gesù ha mostrato grazia nei miei confronti, perché Cristo Gesù, quando io non ero degno e quando non lo cercavo, è questo che cantiamo, Lui ha scelto noi. Per questo, questo è il modo di comportarci in modo degno della nostra chiamata. Non finisce qui, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Pace. Vi è un solo corpo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e il Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Questa è la nostra vocazione. Fratelli e sorelle, e io sono il peggiore a tutto questo. Posso fare una confessione? Io sono il peggiore a tutto questo. E forse per timidezza, metteteci quello che volete. A volte non vi saluto, a volte passo avanti perché dico adesso che gli dico, per le mie, che ne so, metteteci quello che volete. Io ho bisogno della vostra pazienza, io ho bisogno della tua pazienza, ho bisogno del tuo perdono. Però una cosa vi prometto, non me ne vado. Io da qui non me ne vado. Ho bisogno della vostra sopportazione e del vostro perdono, ma io da qui non me ne vado. Io scelgo di continuare a farlo con te. E con te, e con te, e con te, e con te. Lo farò pure male, ma scelgo di farlo con te. Lo scegliamo insieme. Lo scegliamo insieme. Ma perché lì sta la benedizione. Il Salmo 133 ci dice questo, lì sta la benedizione. Perché è una cosa buona, è una cosa piacevole, aggiunge. Lì sta la benedizione. Ci possiamo alzare in piedi un attimo? Chiudiamo i nostri occhi in silenzio. Vi chiedo il totale silenzio, se hai bisogno di prendere una decisione in questo momento. decidere di combattere, dire sì, io mi impegno a stare. Ancora una volta io mi impegno a farlo. Di nuovo, prendo questo impegno e lo faccio. Prendiamoci un minuto per chi ha bisogno di prendere questa decisione. Signore Gesù, io prego affinché in questo momento tu possa guarire qualsiasi ferita. E Padre, noi veniamo davanti a te, abbiamo bisogno della tua benedizione. Rinnova la tua forza in noi. Rinnova la tua forza in noi. Per avere pazienza, umiltà, mansuetudine, sopportazione, amore e pace. Padre, lo vogliamo fare perché tu, prima e più di tutto, ce lo hai dimostrato e ce lo hai dato. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Vi potete accomodare, perché il Salmo non è finito. È piccolo piccolo, ma è pieno pieno, come al solito. Però velocemente, se tutto quello che vi ho detto non bastasse, e secondo me basta, chi è d'accordo con me che basta, quindi ce ne possiamo andare, però ci sono altre tre cosine almeno meravigliose da questo Salmo che emergono e che ci fanno capire quanta benedizione, quanta importanza, quanta ricchezza c'è nello stare e nel vivere insieme. Quanta ricchezza c'è nel venire qui e non rimanere a casa. Ripetiamolo insieme, non rimanere a casa. Non rimanere a casa. Questo è il titolo del messaggio di oggi. Non rimanere a casa. Non ti fa bene, non c'è benedizione. Ci sono altre tre cose, almeno, che evidenziano, sottolineano, sono una ricchezza del nostro stare insieme. La prima cosa è che il nostro stare insieme è sacro, è santo. Lo sottolineo, è sacro. Ed è, non è sacrosanto, sai quando si dice una cosa sacra? No, però è proprio tutte e due, è sacro, è una cosa santa. Ci sono due metafore nel Salmo, due similitudini, no? Sono introdotte da è come questa cosa, è come questa cosa. E il primo è come, è proprio, dice, è come l'olio versato sul capo, che poi scende sulla barba, su tutti i vestiti, fino all'orlo, ma non di una persona così, ma di Aronne. Chi era Aronne? Aronne era il sommo sacerdote, e il sommo sacerdote era unto, diciamo così, bagnato, impregnato di questo olio per metterlo da parte. Santificato significa proprio questo, era messo da parte per stare alla presenza del Signore, nel luogo santissimo del Tempio. E ha a che fare quindi con la santità, entrambe, sia Aronne, il sommo sacerdote, l'unico che poteva entrare nel luogo santissimo, e quest'olio era speciale, c'era una ricetta, se andate nel Vecchio Testamento, c'è proprio una ricetta che era specifica per questo tipo di olio, di unzione, non poteva essere copiata la ricetta, era specifico per questo olio. Era santo questo olio, cioè era appartato per una cosa importantissima che aveva a che fare con la presenza del Signore. Il nostro stare insieme è come questa cosa importantissima, non riproducibile, santa, messa da parte come l'olio e come il sommo sacerdote. Ah, perché questo, fratelli e sorelle, amici? Perché ha a che fare con la presenza del Signore. È santo perché ha a che fare con la presenza del Signore. Dove due o tre sono riuniti, finitelo voi. Lì io sono, in mezzo a voi. Il nostro stare insieme ha a che fare con la presenza del Signore, per questo è santa, per questo è sacra, come l'olio. Come Aronne che era appartato, così è il nostro stare insieme. Quindi la prima cosa è che è santa. La seconda, che è altrettanto meravigliosa, è che è contagiosa. No? È contagioso, non so se l'avete letto, dice, è come l'olio che dal capo alla barba, al colletto, all'orlo del vestito. No, quindi inizia un punto e finisce in un altro. È come, la seconda metafora, è come la rugiada che cade sul monte Ermon, che era il più alto di Israele, ancora il più alto di Israele, e arriva fino ai monti di Sion, che in realtà sono colline e che sono a centinaia di chilometri di distanza. Quindi da un punto la rugiada si propaga all'altro. Il nostro stare insieme è contagioso. Quando io sto bene insieme con te, quando io scelgo di amarti, quando io scelgo di vivere insieme, di proseguire quel percorso insieme, vengo qui non per timbrare il cartellino, per fare presenza, ma per fare famiglia insieme. Quando io decido di fare questo, il tutto diventa contagioso. Benedice. Noi che facciamo parte di questo corpo, influenza, quindi la tua scelta di perdonare, la tua scelta di ricominciare se c'è bisogno di ricominciare, la tua scelta di ritornare in chiesa se hai passato un periodo che lo seguivi più da casa, la tua scelta è contagiosa. Benedirà l'altro e l'altro e l'altro, e quelli che stanno fuori e ci vedranno saranno contagiosi, lo vorranno anche loro. Noi siamo affamati di questo, fuori ancora di più, fratelli e sorelle. Qui c'è la benedizione, qui c'è la benedizione. È santa, è contagiosa, è l'ultima cosa con la quale finisce il Salmo. Il Salmo dice, lì c'è la benedizione, la vita in eterno. La vita in eterno. Guardate questa terza cosa meravigliosa. Quando noi stiamo insieme c'è vita. C'è vita e vita eterna. Fratelli e sorelle, per questa cosa noi dobbiamo combattere. Questa cosa del nostro stare insieme, di venire, non rimanere a casa, di scegliere, di fare un sacrificio, non andare al mare magari, andare un paio di ore dopo e venire, stare insieme, o metteteci quello che ci dovete mettere, è una cosa sacra, santa. È una cosa che contagia, è una cosa che porta vita. Lì il Signore ha stabilito la sua benedizione. Non è una cosa meravigliosa. Il nostro stare insieme non è una cosa... I miei occhi a leggere questo salmo con freschi occhi sono esplosi. Ho detto, Signore, grazie, grazie perché mi ritieni degno di far parte di una cosa come questa. Il corpo di Cristo. Oh, ti rendi conto? Fai parte del corpo di Cristo. Non puoi prenderla come una cosa, lo devi onorare, lo devi difendere questo fatto, lo devi difendere con tutto te stesso, contro ogni cosa e soprattutto contro il nemico che vuole rubare, lui sempre vuole rubare. Amen? Ci alziamo in piedi. Andiamo davanti al nostro Dio. E se hai bisogno di prendere un impegno, come ho detto prima, prendi questo impegno. Di rimetterti nelle sue mani e dire, Signore, sì, io voglio scegliere di tornare. E non solo di tornare per stare e timbrare il cartellino, ma per stare e vivere insieme. Per essere quel corpo unito. Siamo davanti alla sua presenza. E io prego che in questo momento possa scendere la santità. O meglio, la consapevolezza su di noi che questa cosa è santa, è sacra, va difesa, va onorata da ognuno di noi. Che questa cosa possa essere contagiosa, che questa cosa possa portare vita in questo momento. Signore Gesù, veniamo davanti a te e ci arrendiamo a te, Signore. Padre, abbiamo bisogno di te. Senza di te tutto questo è impossibile. Padre, senza di te tutto questo noi non possiamo e non riusciremo mai a farlo. Ma Padre, noi ci rifugiamo in te. Padre, noi crediamo nelle tue promesse. Padre, tu non solo prometti, ma ordini la benedizione, la comandi. In questo senso, per questo Padre, noi ci affidiamo a te. E Padre, io prego affinché tu possa guarire in questo momento qualsiasi ferita e che tu possa dare nuove forze e determinazione ad andare avanti, a tornare ad essere presenti, a vivere insieme, a sforzarci di essere quel corpo, Signore, ad essere pazienti l'uno con l'altro quando non lo siamo. Vieni, Signore, vieni. Ministra il tuo corpo in questo momento. Padre, rendo a te anche chi ci sta seguendo online. Padre, che non possano sentire nessuna condanna, ma l'incoraggiamento ad essere tuo corpo. Padre, io prego per quelli che sono effettivamente impossibilitati. Benedicili attraverso altri modi, altre vie. E Padre, per chi è possibilitato, che possa prendere quell'impegno a stare e a vivere insieme. Insieme, come tuo corpo, come tua chiesa, come tua sposa. Padre, ti glorifichiamo. E insieme diciamo Amen.